Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti voi, cari ascoltatori, un affettuosissimo saluto da parte di Gesi, sì, perché Antonio verrà un pochino più tardi, dato che aveva un impegno al quale non poteva mancare. Bene, allora, noi siamo qui stasera e avremo due ospiti non virtuali, ma in carne ed ossa. Avremo il dottor Tony Basso e avremo il nostro architetto Giorgio Fantin. La trasmissione, come ormai sapete, va in onda ogni domenica dalle 21 alle 22. Voi potete ascoltarla anche in internet su bluradioveneto.it in streaming, oppure il giorno dopo potete scaricarla sempre da bluradioveneto.it, Storie de noaltri. E trasmettiamo sulla lunghezza d'onda per Treviso, Venezia 94,6 e per Padova e tutte le altre sul 88,7. Se qualcuno volesse così scrivere oppure anche per criticare, insomma, se sono critiche costruttive noi le accettiamo, altrimenti non le accettiamo, oppure per richiedere magari qualche canzone, perché voi sapete che qui in questa trasmissione si fanno solo canzoni di una certa epoca, diciamo qualcuna del 2000, ma generalmente canzoni 60, 70, anche 50, non si sa mai, dipende come va la giornata. Allora, la nostra mail è info@bluradioveneto.it. Bene, e adesso andiamo con la prima canzone in programma, che è cantata da un Fiammetta, che è una cantante non molto recente, e canta Ma che domenica. Passo i giorni, aspetto solo la domenica per venire al mare a trovare te. Alla festa, quando salgo in automobile, e di persone più felici non ce n'è. Ma che domenica, ma che domenica, ma che domenica io passerò. Ma che domenica, dolce domenica, ma che domenica insieme a te. Vado bene per pochissimi chilometri, poi la coda delle auto trovo già. Io rimango prigioniera in mezzo al traffico, più di 20 o 30 all'ora non si va. Ma che domenica, ma che domenica, chissà che ora io arriverò. Ma che domenica, ma che domenica, io nervosissima diventerò. Sono le 3 del pomeriggio quando arrivo lì, e tu nuoti lontanissimo nel mar. Un minuto poi risalgo in automobile, è già tardi, a casa devo ritornare. Ma che domenica, ma che domenica, alla domenica io dormirò. Ma che domenica, ma che domenica, io la domenica, no, no, no, no. Eccoci di nuovo in studio e ci ha raggiunto il dottor Tony Basso, che parlerà della storia di Treviso. Oh, dottore, caro, buonasera e bentornato. Buonasera a lei e a quelli che ci ascoltano. Ormai siamo quasi alla fine, dopo quest'estate andremo un po' in vacanza e poi riprenderemo magari a settembre, ottobre. Sempre che l'estate arrivi, perché la stagione non sembra essere stata molto promettente in questo senso. Beh, noi speriamo sempre in bene, no? Sì, sì. Ecco. Di che cosa ci... Ah, il nostro amico Antonio non c'è, perché questa sera ha un piccolo impegno personale, quindi mi ha detto di salutarla tanto, tanto. Grazie. Tanto. Vabbè, allora proseguiamo. La volta scorsa, mi pare, sì, parlavamo... avevamo visto la situazione della città, quale si è venuta a determinare dopo l'ultima guerra, con l'insediamento nel centro cittadino di uffici, di negozi, di studi professionali, e invece un certo spopolamento che è intervenuto per la esigenza abitativa di migliori conforto, che nel centro storico non potevano realizzarsi se non con alte spese non comunemente sopportabili, e quindi molti hanno preferito investire i loro risparmi o contrarre dei mutui per costruirsi un'abitazione fuori della città. E questa è stata un po' la il fenomeno che non è intervenuto, ripeto, solo a Treviso, ma è un fatto che si è riscontrato in molte, se non in tantissime città del nostro territorio. La gente si lamenta in periodi specialmente di campagna elettorale, tutti hanno la loro formula per dire come si può rendere la città più vivace, più vivibile, sì, più frequentata, che poi frequentata lo è specialmente in certi giorni e in certe ore, ma non è abitata. Quando a una certa ora si chiudono i negozi, si chiudono le attività, la città rimane pressoché deserta e quasi sguarnita, per cui è anche possibile che si verifichino fenomeni spiacevoli di violenza o di disturbo alla quiete dei pochi residenti ormai che sono rimasti nella nostra città. Ma guarda che la sera non si esce mica, cioè se non si è in due almeno. E non si esce dopo cena. Sì, è diventato rischioso questo, ed è, ripeto, un fenomeno sul quale si parla molto, invocando quasi un ritorno, un far rivivere la città. Ma il ritorno, il tornare indietro, presupporrebbe un ritornare di tutte le condizioni che c'erano una volta. Adesso pensiamo a cosa sono i servizi, per esempio. L'autobus non c'è quasi. Che una volta, sì. Ma parliamo dei servizi alla cittadinanza, alla popolazione. Se noi pensiamo, per esempio, ad uno dei servizi di maggiore che ha maggiormente inciso nella storia della città, pensiamo all'ospedale, che si trovava a San Leonardo, sì, ed era una istituzione frequentata non solo perché c'erano i malati da venire a trovare e ad accudire, ma anche perché c'erano gli esposti, c'erano i malati mentali, c'erano i malati contagiosi, e quindi si è cominciato ancora all'inizio dell'Ottocento a togliere dall'edificio di San Leonardo alcune di queste istituzioni. Per i malati mentali è stato costruito a Sant'Artemio l'ospedale psichiatrico, e quindi quelli sono stati tolti. Poi è stato costruito il brefotrofio per gli esposti, anche quello fuori della città. È stato costruito l'ospedale di isolamento in via Scarpa, anche quello fuori della città. E infine, dopo vari progetti, è stato anche trasportato il nosocomio, cioè il luogo, sì, dove si curano i malati, a Santa Maria di Cafoncello. Certo. Ed è impensabile, improponibile di riproporre questi servizi ancora nella città. Quindi il tornare a come erano una volta le cose è una roba impossibile. Pensiamo, per esempio, attualmente c'è in Piazza dei Signori, c'è la prefettura. Alle volte ci sono delle riunioni, vengono giù sindaci e funzionari da tutto il territorio della provincia, e il Campomaggiore è intasato di automobili, perché questi signori non possono camminare a piedi e quindi hanno tutti bisogno di venire portati con l'automobile fino in Piazza dei Signori, cosa che gli altri mortali non possono fare. E quindi c'è questa esigenza di spazi per i servizi che sottrae spazio alla vivibilità da parte dei cittadini. Poi per esempio i commercianti si lamentano molto che la città si sta spopolando. Sì, ma, è vero. Questi signori commercianti perché non vengono loro ad abitare in questi appartamenti vuoti? Loro abitano a Quinto, a Ponzano, a Preganzeol, a Paesi, a Silea, la casa se la sono fatta fuori, quindi la vivibilità del centro è critica anche per coloro che si lamentano che non c'è vivibilità. E quindi il discorso è, credo, molto, molto più complesso di quanto possa sembrare. La campagna elettorale recente ha visto lo sfornarsi di progetti a getto continuo, tutti hanno detto la loro. Io non so quale sarà la soluzione, io non sono né un urbanista né un economista. Ho così qualche ricordo di quella che era la città del passato, la città di quando io ero ragazzo, che potevo giocare nelle strade e nelle piazze della nostra città senza il pericolo delle automobili, perché di automobili ce n'erano veramente poche. E pensi che nell'immediato dopoguerra i veicoli a trazione animale in provincia di Treviso erano di più di quelli a trazione meccanica. Penso un po'. E quindi l'automobile, ma anche gli altri mezzi, i camion, i furgoni, i motocarri, eccetera, le corriere, erano piuttosto rare, erano. E la gente si spostava con la bicicletta, si spostava. Pensi che nel territorio comunale di Treviso ho trovato dei dati riferiti al periodo immediatamente precedente l'ultima guerra, c'erano 72 custodi a bicicletta. Sì, adesso ce n'è neanche una. Adesso non so se ce ne non siano ancora. Proprio. E quindi questo ci dà già un'idea di come la gente si muoveva e quindi di come la gente viveva. Gli spostamenti anche all'interno della città erano piuttosto rari. Chi abitava in Borgo Cavour difficilmente andava per esempio alla Madonna Grande. Il professor Alessandro Polo, che è stato un cultore del nostro dialetto, parlando del dialetto trevigiano, dice proprio che fra due quartieri dentro alle mura della stessa città c'erano due forme dialettali diverse. Questo per cui si riusciva, dice, scrive lui nel suo meraviglioso libro Il ritratto di un dialetto, cioè si poteva individuare se uno era da una zona o dall'altra della città. Questo posso fare una domanda? Dica. Alessandro Polo era il padre di Lucio Polo? No, era lo zio. Ah, lo zio. Alessandro Polo è stato un anglista, un professore di inglese, che ha insegnato, credo sia stato anche preside dell'Istituto Riccati. Ah. E con lo stesso rigore scientifico con cui ha studiato e insegnato l'inglese, ha fatto anche questa ricerca sul nostro dialetto. È un libro piacevolissimo, non so se ancora si trova in circolazione, ma è un libro che io consiglierei di recuperare. Sì, sì, sì, sì, a sì. Chi ha la passione per la nostra città, certo. Perché ci restituisce questo clima del nostro passato, purtroppo così per certi legami affettivi che ognuno e quindi anch'io ha per il proprio passato e per la propria, certo, storia, dico purtroppo, ma non so, ma le me... cose cambiano, adesso c'è stata una... non da adesso, ma insomma ha cominciato ad aversi un'immigrazione prima solo interna, cioè di persone venute da altre regioni dell'Italia, e adesso addirittura una immigrazione straniera, che ci fa perdere la nostra identità. E quindi quando si parla di un recupero culturale, credo sia veramente un'impresa ardua, perché chi ha una storia diversa da chi nella città è nato e vissuto e ha le proprie tradizioni, è difficile che riesca ad assimilarla, a farla propria, difenderla, tutelarla, valorizzarla e farne di essa un motivo di richiamo turistico, come può essere per esempio per Venezia, pensiamo ad attività come la regata storica a Siena, al Palio, eccetera, che hanno una loro tradizione e che è sentita e che costituisce motivo di attrazione per la gente che viene da fuori. Certo, Treviso però ha ancora molti valori della propria storia, del proprio ambiente, fra cui c'è certamente anche il linguaggio, ma c'è il patrimonio d'arte, c'è il paesaggio, c'è questa città così attraversata dalle acque, certo, che è abbastanza caratteristica. Pensiamo a cosa è stato fatto nel creare questa isola, mettendo al centro di questo corso d'acqua tutto il terreno che era qua e là a formare degli isolotti. Questa è stata una bella intuizione di raccogliere tutto questo terreno al centro e di farne un'isola, che è una delle pescherie più curiose d'Italia. Sì, certo, sì, purtroppo certo. Ormai il pesce stenta a mancare in quella isola, che era stata preparata, attrezzata con banchi anche igienicamente funzionanti che sono naturalmente costati per poterli realizzare, ma adesso ormai il pesce si va a comperare altrove, sul gelato, ma anche ci sono dei commercianti di questo genere alimentare che sono un po' sparsi nel territorio e quindi si preferisce andarlo a prendere. La pubblicità televisiva ce ne dà tutte le indicazioni, non starò io qui a ricordarlo, per cui la pescheria come luogo che non era soltanto un luogo di mercato, ma era anche un luogo di socializzazione, perché la gente, magari le donne, si davano appuntamento in pescheria per fare la spesa, ma anche per così comunicarsi esperienze, problemi di vita, aspettative. Era un luogo di ritrovo. Era sì, un luogo di ritrovo, e adesso, ripeto, questo è sempre meno. Le strade sono affollate, non ci si può fermare, è pericoloso sostare, i marciapiedi sono a volte anche invasi dai veicoli. Ci sono dei punti in cui pensiamo per esempio in via Martiri della Libertà, dove c'era una volta la drogheria Foresti, mi pare che il marciapiede lì in quel punto deve essere di 50 centimetri. Adesso questo per dare un'idea, è una cosa, un po' un esempio particolare, ma insomma è sufficiente per dirci quanto difficile sia anche vivere in queste strutture. Certo, il problema del traffico è un problema che, ripeto, io non sono un urbanista, non sono un economista, non sono un esperto di queste cose, ma sono cose che si notano e che devono essere tenute conto da chi dovrà risolvere questi problemi. Adesso poi che sistemeranno il ponte di Porta Calvi, quindi tutte le ci sono delle deviazioni, no? Non so lì deviazioni che cosa. Dell'autobus, deviazioni delle macchine. Sì, dicono che ha 106 anni il ponte di Porta Calvi. No, il ponte di Porta Calvi è stato aperto nel 1906. Il varco nel 1906, contemporaneamente al varco Carlo Alberto e a quello di Fra Giocondo. E adesso devono metterlo a posto perché dicono che è un po' pericolante. Insomma, quelli sono problemi che se la dovranno vedere gli ingegneri. Ecco, signori, io credo così di aver tracciato il mio punto di vista, il mio modo di vedere la città nel passato, nel presente, ma anche intuendo alcuni dei problemi che ci saranno nel futuro. Io spero che vengano affrontati con grande affetto per la città, ma e con un'attenzione per quella che è la sua identità, quello che la fa diversa dalle altre, caratteristica e invidiabile anche per certi aspetti. Comunque tanti negozi adesso, se quando si va in centro si trovano negozi chiusi, negozi che una volta, a me fa malinconia sta cosa qua, fa molta malinconia, perché è bello vedere la città viva. È quello che io auguro agli amministratori. Comunque, che dovranno affrontare questi problemi. Comunque, dottore, io la ringrazio per tutto il lavoro. Ringrazio che lei ha fatto per la pazienza che ha avuto. Per me è stato veramente un piacere e spero anche per i nostri ascoltatori che lei veramente quest'anno e anche l'anno scorso, ormai è tanto che parliamo della storia, che ci parla lei della storia di Treviso. E quindi non mi resta, anche da parte di Antonio, che ringraziarla e non si sa mai che ci sia anche qualche altra occasione di parlare di qualche altra cosa. Va bene. Cosa dice, dottore? Speriamo. Va bene, intanto noi la ringraziamo e le auguriamo buone vacanze. Buone cose anche a lei e a chi ci ascolta. Grazie. Ringraziamo di nuovo il nostro dottore Tony Basso e proseguiamo con la seconda canzone. La canta Junior Magli ed è intitolata Alla fine della strada. Sera a parlare con me, tu mi domandi l'amore dov'è, e quando la luna passò, solo una voce restò, io mi ricordo che lei mi diceva così, vieni, vieni, vieni, che alla fine della strada c'è l'amore. Eccoci di nuovo in studio. Oh, finalmente è arrivato il nostro Antonio con il nostro ospite. Ciao Antonio. Ciao, buonasera architetto. Buonasera. Ben arrivati, Sam. Grazie. Sempre piacere. Ecco, allora Antonio, tu... Impegno indifferibile, diciamo. Ho capito. Beh, ma adesso sei qui, no? Sì, questo è l'impegno indifferibile, devo dire. L'architetto Fantin ormai penso che... Sono da casa. Una nostra vecchia conoscenza. E oggi e stasera ci parlerà, vediamo. Cosa dice? Tema sorpresa. A me storia. Una cosa estremamente interessante. Un po' tutte le notizie. Questa primavera che decolla molto lentamente. Sì. E allora, come facciamo con le feste? Le feste, praticamente non l'ho vista da San Liberale. Perché pioveva, gli ho detto. Allora San Liberale dice che non manca mai un fortunaio. Quindi è rimasto nella tradizione. Però abbiamo fatto delle belle cose lo stesso. Però il giorno dopo noi della congrega abbiamo all'auditorium di Treviso, del Pio X, abbiamo segnalato con dei distintivi di merito 12 persone trevigiane. Esatto. E non personaggi, sono i nostri amici, conoscenti, persone delle vere, cose vere veri che fa parte del tessuto di Treviso. Sì. ed è stata anche una festa simpatica, abbastanza bene, proprio l'auditorio ci ha accolti e ho visto che sì, qualcuna tipo Ottorina ha agafato una lacrimetta, sì. Ma era bello una parlarsi. Buona copertura giornalistica e poi la presidente dell'ADA è venuta ed è stata contenta, sì. Felice perché sì. Ha avuto un supporto, Anna Mancini, uno sponsor l'ha trovato, perciò noi siamo stati contenti anche per benissimo, quello insomma. Benissimo. E dopo che c'è stato il Giro d'Italia, che per quanto poco, sempre qua piova, è arrivato allora, perciò noi abbiamo avuto a maggio una cosa. E comunque il Giro è sempre una cosa da vedere, da sentire. Insomma, ma con noi, tutta quella pioggia. No, quando sono arrivati, per fortuna, non era proprio il massimo della... Da noi ha piovuto abbastanza bene. E poi vi dico che... proprio stamattina sono stato a parlare ai paraggi di una mostra che di personaggi trevigiani. Io ho scritto un libro, anzi non l'ho mai scritto, ma ho fatto un libro di Treviso l'ultima, fotografico, con un fotografo da Conegliano che ora è venuto da Parigi, lavora a Parigi, e ha presentato delle foto, queste foto di Treviso l'ultima in galleria. E l'ha presentato senza i nomi sotto. Allora mi hanno invitato a dire, fatti spiegargli a queste persone chi sei, perché ogni fotografia è una storia, da Mazzarolli, da Dalmonico, nel 1977 sono. Fino adesso? No, solo quell'anno là. A identificare ogni personaggio. Sì, c'è Alfredo Beltrame, il gastronomo... Mafioli, c'è Monico. C'è nel libro, c'è, ma non Monico, non c'era la fotografia. Ah, ho capito. C'è la Wanda Casellato, che era la poetessa, il sindaco Mazzarolli, Beppi Mazzotti, tutti i trevigiani. E poi c'erano anche i Poricani, nel senso... il cameriere della piazza, Vanin, Ciccio Vanin, tutti quelli che si parlavano, tutti i personaggi veri. Non era un mediatore, no? No, quella è Checca Busato. Ah, ho capito. Quello che ha portato, anche lui c'è, quello che ha portato la ragazza da Casale per Signori e Signore. Ah, ho capito. Ah, di la figlia di Cristoforo Letto. Che la racconteremo una volta, questa storia trevigiana. Sì. Ecco, perciò dopo del Giro d'Italia c'è stato tutto quanto che si è succeduto a maggio, abbastanza tranquillo insomma, a parte questi giorni di piova che c'è sempre freddo. No, mi pare che tutto maggio abbia piovuto veramente. Che è sempre freddo e anche vedremo che giugno non mi sa che promette niente. Fino alla metà, quando cambia la luna. Domenica precedente sono stato a casa delle Olimpia Biasi, con una giornata di sole, ma con freddo, proprio vento e freddo. Mamma mia. Che ha presentato un libro del Agapanto di Lucchino, cioè i suoi fiori di giardino, aveva tutti i fiori, e ha fatto un libricino che le ha presentato, le ha regalato, e, parlando di tutta della sua fioritura, di tutti i suoi fiori, e li ha disegnati. Un libro bellissimo, bellissimo. Ecco, io vorrei partire con i raccordi che noi andremo a cercare cosa dopo questa domenica. La festa della Repubblica. È il 2 giugno. Cosa facciamo la festa della Repubblica? Una volta facevano le parate qua a Treviso, andavamo in viale Vittorio Veneto, allora da piccoli si metteva di qua di là a vedere. Adesso lo fanno solo a Roma e lo faranno anche in tono... vorrei dire minore. In effetti ecco, questa elegia, diciamo, dell'esercito, insomma, forse non è che sia diminuita, perché è sempre, ma ricorda vecchie parate storiche che non avevano soltanto l'apparato di fucile, spalle fucile e basta, insomma. Esatto. Adesso invece è tutte le forze armate, sia di aria, sia di marina, sia di carabinieri, sia della polizia, devono partecipare a questa festa, che è la festa della nostra Repubblica. Dovremmo fare anche noi, partecipare come civili, perlomeno una squadretta di civili, perché è la festa della nostra Repubblica. Di tutti i cittadini, chiaramente. Eh sì. Comunque... Poi, no, continuate anche d'estate a fare feste? O... Sì, sì, sì. Io, a proposito, ancora una lunedì scorso, ancora l'altra settimana, ho portato le 48 bambini delle elementari del Tomaseo a vedere Treviso Sotterranea. Treviso Sotterranea, nella porta di Santi 40, c'è un sotterraneo bellissimo che è venuto celebre perché abbiamo trovato uno schioppo della Prima Guerra Mondiale, ero segno fuori i carabinieri, tutto quanto così. Noi abbiamo lavorato con Garatti, che di questa Treviso Sotterraneo, ho fatto anche 5 libri. Ah. E questi bambini si sono appassionati perché entra dentro a trovare queste pietre vecchie, questa bella volta che è la porta. E poi intanto abbiamo diviso a metà, li abbiamo portati sopra nel sottotetto, abbiamo spiegato perché come erano sorte queste mura, abbiamo spiegato un po' e perciò li abbiamo accontentati tutti. Quindi. Poi sono andati a mangiare un panino e una bibita per ciascuno, hanno fatto il giro della mura a lungo e si sono divertiti tutti. Ma sono iniziative meritorie anche perché insomma portare Ma mi sono accorto anch'io meritorie, perciò noi abbiamo ancora diapositive e vorrei fare una serata di diapositive perché... Mi sono anche dimenticato di particolari, certo, ed è bello essere sempre... E quello che io suggerisco sempre in occasione di questo tipo, e non viene quasi mai fatto, ma è un, credo io sia una manchevolezza, occorre sempre registrare. Perché sì, le foto, sì, tutto, ma è la, come posso dire, una registrazione dal vivo, eccetera, a futura memoria, dà quella marcia in più dal punto di vista dell'immediatezza. Senz'altro. La foto bisogna mettere sempre il timbro, certo, la data, certo, e cosa, esatto, il posto. Il video rende viva la memoria praticamente, dà qualcosa in più secondo me che andrebbe bene in qualsiasi manifestazione pubblica o privata. Perché? Perché si fa memoria. Senz'altro, senz'altro. Per il post. Sì. Per chi verrà dopo. Esattamente. Dirò una cosa, io oggi... Ho parlato di queste fotografie di essere sono stati anche contenti, mi hanno fatto anche l'applauso, pensa che, perché ho spiegato alle persone chi erano i trevisani, perché bisogna vedere all'indice il nome di questa persona, no? Se no dei Trevisan. E invece ormai sono passati 30 anni di più, perciò insomma qualcuno non si ricorda. E poi così alle 11:30, così all'1 poi sono andato a votare, ma non vi dico altri che cosa che ho votato. Ma il voto, noi, il anche voto noi, è segreto, soltanto anche noi non lo diciamo, una volta che ho solo Dio ti vede sulla cabina. Diciamo che è un adempimento sociale. Bisogna. Ecco, perché altrimenti sei un nullo, se voti zero è nullo. Voi erano cade votate? No. Treviso è un'anomalia rispetto all'anomalia intesa nel senso che assieme paesi, ad altri, ad altre città anche importanti, eccetera. Comunque io sono andata a pranzo a Castelfranco, per cui dopo si vota dopo, prima si mangia, poi dopo. Sì. Comunque ci fermiamo un momentino per ascoltarci la terza canzone che si intitola... A me piace tanto sta canzone, I giorni dell'arcobaleno, che è cantata da Nicola Di Bari. Mi piace anche a noi. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Stesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Tu adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine le amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. Allora rientriamo in studio e siamo qui con il nostro architetto Giorgio Fantin. Però io vorrei leggere, visto che sono qui che sogno, che bramo questa primavera, ma così vorrei leggere una poesia del nostro amico Emilio Gallina, che salutiamo. Che salutiamo, ed è sempre ecco, bello sentirlo. Sì. Assieme alla poesie. Sua gentile signora. Allora, lui ha scritto Primavera. L'ha scritta in dialetto e anche in italiano. E io, siccome mi sono fatta mandare poco prima della trasmissione, la leggo in italiano. Primavera. Mi meraviglia primavera, il verde tenero delle gemme sul tronco secco del gelso e il verde giovane dell'erba nuova del prato. Allegro fanno mente e cuore. Mi meraviglia a primavera il brivido nuovo che corre l'aria, fertile rende la terra e gravida come novella sposa, e l'improvvisa pioggia che scende tranquilla e leggera, lieve carezza che si scioglie ovunque colorando di cielo le pozze d'acqua. Mi meraviglia a primavera il giallo riso dei fiori che scoppia nei campi e lungo le vie di fossi e di strade. E quel candore, novella neve, nell'intreccio dei rami del pomo e del nero ciliegio. Mi meraviglia questa primavera, l'ardente desiderio di vita. Brama di amore mi prende e mi fa gioire, come la prima volta, di te. Ecco. È bravo sempre, Gallina, sempre. Ma se brava Giusy a dirlo così, sta pioggia del Pineto qua che si sente. Bellissima, brava. Sì, sì, forte, forte. Ecco, allora diamo la parola al nostro ospite. Bah, la parola al nostro ospite. Io vorrei ricordare anche una certa cosa. Fra poco noi stiamo lavorando, cioè sto lavorando anch'io, purtroppo, perché porta via un po' di lavoro, però è piacevole. Faremo il museo, lo odio il museo perché si vede una volta dopo, si è messa tanto da polvere, però facciamo una mostra di fotografie di campioni dello sport di Treviso, e ci hanno dato tutto un ingresso di una ex scuola a Ponzano Veneto, e via Sant'Andrale vicino Villa Minelli, per capirsi. E io ho già preparato i pannelli, siamo andati a comprarli, abbiamo messo le rotelle per spostarli, per avvicendare tante cose, e con Prando Prandi, che è il nostro presidente adesso, abbiamo tutte delle fotografie da inserire su questi pannelli, e lo presenteremo, e l'inaugurazione sarà proprio sabato 8 giugno. quello che non voglio, ecco, quello che non mi piacerebbe che sia sempre le stesse, bisognerebbe variare, facciamo un tema, non so, per un mese facciamo solo ciclismo, per un altro mese facciamo solo calcio, per un mese rimane sì, perché così la crea più aspettativa, altrimenti sì, diventa una cosa onnicomprensiva. Ognuno va a vedersi la sua parte di sport, insomma. L'abbiamo fatta anni fa, pochi anni fa, al Museo Santa Caterina, e i custodi mi hanno detto: non avevo mai visto tanta gente venire dentro, perché andava a vedersi chi era il coso, neanche a vedere le mostre, è perché è un richiamo proprio di personaggi conosciuti, giustamente. Sì. E poi abbiamo una segreta per la Jay-Z, se viene, perché tempo permettendo. Dov'è? Bianchi i poeti. Il Beato Enrico da Bolzano. La chiesetta. A Nerbon? No, chiesetta giù in via Canova, nell'angolo che della curva, lì dentro un recinto, la chiesetta recintata. Dopo l'Adriatica, quelle parti lì? Davanti sono andata via l'Adriatica, mi dice, non so. Oh signore, non sapevo. Dopo Cadanoal praticamente, insomma. Ho capito. Dopo Carlo Began. C'è questa chiesetta. Un personaggio straordinario. Noi della congrega portiamo dei panini che li benediscono, li portano a casa, chi passa, chi va in chiesa, e nel pomeriggio facciamo un piccolo di segreta, vengono i poeti a declamare le loro poesie. 10 giugno, se non ricordo 10 male. Giugno. 10 giugno, che dovrebbe è essere il sabato, forse. No. 10 giugno è di lunedì. È lunedì, era di lunedì. Anche perché il 12 compie gli anni. Il 12. Ormai non si dice più quando compie gli anni adesso, perché ormai mi sono tutti sui 80, mi sono invogliti. Però interessante, è un personaggio straordinario il Beato Enrico, chiamato così da noi. Volevo far copiare un librettino con delle foto, robe, perché è Beato, sì, che già sono tutte le campane che il giorno che è morto. Così. Esattamente. Leggende, ma dopo, perché l'hanno fatto Beato, io credo che hanno sbagliato il tempo, perché dovevano farlo già santo. E lui è rimasto Beato. Un personaggio la cui moglie e il cui figlio sembrano siano sepolti in Santa Maria in Castello di Biancate. Un gioiellino ristrutturato dove tengono anche dei concerti di musica classica. Sì, l'ho dato anche io, perché è privato, è di Simone Piaser, che è con noi nel Trivio Sotterraneo. E la chiesa è privata, insomma, perché c'era il bastione una volta, c'era un castello. Il castello di Biancate, insomma. Chissà che sia una bella giornata, che non piova a Santa Maria. Mi telefonerò mia, mi cucinciola sopra, telefonerò. Dovrebbe mettere la testa a posto. Dopo il 12 la metterà a posto. Dopo la sagretta invece faremo un magnar d'artista. Dove? Che al circolo, tanto lo facciamo. Ogni tanto al circolo ufficiale quest'anno dell'esercito qui in via Santa Margherita. Dicono che si mangia bene lì. E ho una ragazza che giocava con me in cucina col fratello, e ora siamo da casa adesso. E vengono i pittori, una decina di testi. Quest'anno diamo un tema sul rugby. Perché lei giocava a rugby con me, allora dice: teniamo dopo tutti i disegni che fanno, pagano la cena, loro sono esenti dal pagamento. E Torino altri li vediamo lavorare. Leggevo questa mattina sulla stampa di un certo Ino, e può essere che Luigino che Ino Pizzo di rugby e della Tarvisio, Ino Pizzolato, sì, Ino, che è un bravo ragazzo, sì. Ha portato avanti la squadra della Tarvisio mi hanno detto che domenica scorsa, non so, forse lei, Giorgio, l'ha visto, che hanno scritto sul giornale, hanno commemorato la signora Bolzan nell'anniversario della sua morte. Domenica, io compro il giornale la domenica, per dire la verità, ma non ho letto della signora Silvana Bolzan. Sì, ma me l'hanno detto così, non so. Io lì a casa darò un'occhiata, ma non, cioè, era sempre, sempre a tutte le manifestazioni di pittura, la trovavi sempre. Era una donna straordinaria. Sì. Beh, guardi, per me è stata una persona che mi ha tanto aiutato, proprio incoraggiata anche a cominciare a fare radio e tutte queste, ma proprio veramente. Mi dica che è un doppio cognome. Bolzano, cos'è? Fasciolo. Poi cercava sempre di coinvolgerti, cercava una persona che sembrava duretta come persona. Spigolosa, apparentemente. Però insomma, era tanto... Io stesso sono stato cooptato nel processo a Gesù a Santa Caterina. Sì, l'abbiamo fatto insieme. Abbiamo fatto tanti processi a Gesù. E quanto freddo in quelle chiese che ho patito in quel tempo. Mamma mia. Io volevo fare una domanda, perché sono curiosa. E dal 1 giugno, mi pare, no? Che cominciano a restaurare il ponte di Porta Calvi, che ha 106 anni o è stato, stato costruito nel 1906? Com'è? La data precisa non lo so, so quegli anni ha di 1900, insomma, perché... Poi 20 anni dopo hanno buttato via un casello e hanno fatto la chiamavano la Villa Russa, che si chiamava il fabbricato nuovo, che abitava Cellini, là siamo andati a vederla, e hanno buttato via un casello. Adesso l'ha comprata Compiano, poi l'ha comprata della famiglia Compiano, insomma. Anche il castelletto? Il castelletto, l'hanno comprato. Il castello delle fate. Il castello russo, che chiamava, perché forse è cupole. Quante volte sono passata di lì, mamma mia! Ma tante volte, ma non nel 1800, neanche nel 1900, insomma. No, è che dal 2000, quando hanno fatto il PUT... Attraversare quel semaforo lì è dura. E allora mi tocca fare un giro. Sembra che debba essere ricostruito ex novo o sbaglio? Io credo sia rinforzato, perché sembrerebbe dalla piantina che passa, c'è un senso unico, attualmente un senso unico in entrata, diciamo, poi verrà bloccato. Ha detto 2 mesi, ma vedete che siano 2 mesi. Vediamo. Credo sia il 9 settembre la deadline, cioè il giorno, l'ultimo della fine? Giorno. Esattamente. Mi pare di aver capito. Quindi chissà che devieranno gli autobus, devieranno le macchine. Decisamente. Sarà un perché po' di... lo fanno via lungo Sile Mattei. Non so, ma hanno passa un pullman. Lì sarà un po' una sfida, credo. Ma non gli autobus, no, non possono passare di lì. Non credo proprio. Le macchine sì, ma anche perché è strettina proprio. Che è un bel marciapiede largo, però lo stesso. Non so, proprio andare via in canottieri in barca, perché decisamente. Allora, siamo arrivati al 10 giugno alla nostra sagretta lì di Acanova. Ma il comune ha intenzione di fare, non so, lei sa qualcosa, se faranno qualcosa d'estate, qualche... Allora, porto una novità. Anzi, sabato ne abbiamo parlato con la mia congrega, adesso dobbiamo ancora decidere, però. Mi hanno telefonato per fare la festa di Buranelli. A fine giugno, sabato 29 e domenica 30, di fare la festa di Buranelli. Non è facile, perché una volta si faceva Piazza Rinaldi, la voglio fare solo Piazza Rinaldi, Piazza San Vito e basta, l'avevamo allargata, ci portava sia costi sia niente, il comune non ha soldi, adesso stiamo tentando di parlare con le orchestre più trevisane, così meno siano coinvolte, esattamente. Spero di fare Treviso a Trevisan in la ribalta, fare qualcosa. Una volta abbiamo fatto di autarchico, sono venuti i trevisani, e poi voglio fare la corsa di camerieri, eventualmente sulla stessa festa, allora facciamo un bel fine giugno. Intanto adesso che pensiamo alla festa dei camerieri, perché mi interessa questa corsa dei camerieri, intanto ci ascoltiamo un'altra canzone. Questa è una canzone cantata da Charles Aznavour, è una canzone un po' particolare, a me piace comunque. Quel che non si fa più. Quel che non si fa più. No. Oscurità e il chiasso familiare, bel posto più alla moda in tutta la città, noi rimaniamo qui per ore ad ascoltare i nuovi pop più forte può. Io ti ho incontrato qui dove eri un personaggio qui con te come un pellegrinaggio. E riscopri con me quel che non si fa più. Stai guancia a guancia, sì, e cuore a cuore, sì, e stringi più che puoi le braccia intorno a me. Stai qui contro di me. Stai qui contro di me. C'è tanta gente, lo so, ma chi la sente più? Facciamo conto che il mondo siamo noi, almeno fino a che la notte. Stai qui contro di me, stai qui contro di me. Star stretti come noi sembra una cosa nuova. Persi tra la folla delle coppie in trance, che sembrano ricordare riti primitivi, rimasti uguali da migliaia d'anni fa. C'è gente intorno a noi che sta ballando insieme, ma si direbbe che ognuno fa per sé. Scopri con me quel che non si fa più. Stai guancia a guancia, sì, e cuore a cuore, sì, e stringi più che puoi le braccia intorno a me. Stai qui contro di me. Stai qui contro di me. C'è tanta gente, lo so, ma chi la sente più? Facciamo conto che il mondo siamo noi, almeno fino a che la notte. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Giorgio Fantin, il quale così completerà quest'ultima tranche dei suoi ricordi, dei suoi racconti. No, tutte le cose dovevo fare non si ricordi adesso perché è un problema, cioè, un problema è adesso futuro, cercare, passato, ecco, cercare ecco. Di organizzare una cosa, certo, fatta bene, certo. Io a queste feste, chiamiamole che trevigiane, arriva gente da fuori, mi interessa i trevigiani, sì. E prima di tutto devono divertirsi i trevigiani, certo, chiaramente, certo. E allora per esempio in piazza Rinaldi, dove abito, c'è sempre il mio amico Giorgio, l'avvocato che sta vicino, che si arrabbia sempre perché chi è l'avvocato? Ve lo dico fra un secondo, sì. perché l'orchestra bisogna che suonino a piano. Io mi sono arrabbiato alla piazza, gli ho fatto il primo maggio, non ci si parlava neanche vicino a 20 centimetri in piazza, sono dati abbassati. Un frastuono, no, ma in effetti è un vezzo così. Ecco, allora bisogna vedere e poi fare un po' queste feste qua, un po' di cultura, di una mostra dei quadri, le tour delle poesie che vedremo fare qualche cosa di spettacolo dei noi trevigiani. E questo bisogna cercarli, insomma. Fate che qualcosa qui in Piazza dei Signori? No, io se riusciamo a fare, io voglio fare Piazza San Vito e Piazza Rinaldi. Ah, ho capito. C'è un bel negozio vuoto adesso che c'era, se mi dessero qui, è di proprietà di un del mediano del calcio della Juventus. Lo chiederò se mi può dare, facciamo una mostra con i cavalletti a due giorni di solo quadri trevisani, per esempio. Abbiamo parlato così con la nostra congrega di poter riuscire. E ora ho detto, se facciamo, la richiamo e la facciamo, famo questo gran premio di camerieri. Ecco, questa cosa dei camerieri. Voi siete piccoli, voi, ma nate nel dopoguerra, si faceva nel dopoguerra il 1° maggio. Ah. Festa dei lavoratori, sì? E la CGL o chi è la Filcan, la cosa, le cose di camerieri, facevano questa giornata, non so, aggiornata, facevano anche dopo corsa col sciacchi con i bambini, facevano con l'orchestra, ballavano mogli e mariti, sì. Tutta la giornata di 1° maggio, insomma. E io l'ho ripresa, abbiamo fatto 4-5 volte e poi uno che era con noi con la collega si è appropriato, mi ha detto che ha registrato corsa di camerieri. Tanto posso farlo io, fallo, tientelo. E l'hanno fatta per il comune, è dato 2 anni. Il comune non c'entrerebbe niente, deve dare l'ok a chi che l'ha fatta. Evidentemente. E chiamerò Gran Premio, chiamerò gara. Qualcosa che non chiamerò, sia in contrasto. Perché oltretutto il cameriere non deve correre. Assolutamente, il cameriere deve proprio passeggiare quasi a piedi piatti, è improprio, non si deve correre perché si viene squalificati. Ah. E devono avere, una volta avevano il tovagliolo sul braccio e portavano, ci sono due vecchi che arrivano vestiti smoking, vecchi camerieri, sì, sono gli older, oltre i 40 anni, ed è una piccola festa, perché anche qui vediamo sti giovani che è un lavoro, anche quello, il cameriere è un lavoro, bisogna saper parlare, bisogna saper servire, bisogna anche essere gentili, individuare anche il cliente, psicologia, ci vuole tatto e capacità adesso sto cercando appunto di fare due o tre premi, il primo perché facciamo un sifone. Ah. Sì, anche di piccoli soldi, perché ogni borso speso, insomma. Sì. Avete degli sponsor? Io li ho sempre avuti. Adesso ho scritto a una ditta che ci abbiamo lavorato assieme, insomma, spero di avere. E diamo una traversa, sai, un grembiule. Ma basta proprio, giusto per... E diamo un sifone, io ho comprato un sifone vecchio, Barbieri me lo serigrafa, mi scrive due, se hai dell'acqua lascia l'acqua, e lui la ricopre con i suoi segni. Sono cose molto simpatiche, perché effettivamente hanno un contenuto di memoria. Ed è una storia, io ho trovato fuori i vecchi, sono andato a cercare i vecchi camerieri, ne è morto uno, Meneghel, che era un poeta, il Moro, il Nero, anzi si chiamava, e ho trovato quelli del Bolognese, avevano 20 camerieri, una squadra, tutti quanti, ne ho trovate tanti della storia, e l'ho scritta su Sport Trevigiano, siamo a livello di 9 puntate, insomma. Però bicarbonata. E poi, così luglio-agosto avete intenzione di fare qualcosa o vi riposate? Noi lavoriamo sempre. Sì. Ma in luglio abbiamo poco da fare, invece dopo Ferragosto cominciamo con la festa della corsa di hockey a Roncalli. Il 3 giugno, il 3 settembre avremo festa degli Osti, e cominciamo, insomma. se sì, diciamo inizia una nuova stagione. Quindi voi dopo stagione. Ferragosto cominciate finite in giugno e fate un po' di vacanza, diciamo. Collaborate anche con col folklore trevigiano, con Crespan. Con Crespan e anche con Marini. Ah, ho capito, ho capito. Con tutti e due. Quello anche con le baghe della Zozagna. Ah, le baghe della Zozagna, è forte. Antonio, forte, sì. Noi ci ripromettiamo prima della fine di chiamare ancora l'architetto, perché abbiamo tante cose ancora da chiedergli. Certamente, nel frattempo cosa facciamo? Ma voi fate anche agosto, settembre, fate noi completiamo il tutto. Anche voi andate in ferie allora. Sì, andiamo in ferie. Come ora siamo obbligati a completare il tutto, salutando i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, e ringraziando l'architetto. Grazie a voi, invece, grazie a voi. E a presto, proprio presto. Esatto. E come sempre io saluto affettuosamente dicendomi il solito ciao ciao. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.